Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il governo spagnolo rigetta la palla in campo catalano. Chiariscano se hanno dichiarato l'indipendenza oppure no. Legge elettorale, oggi i primi voti in aula, protesta in piazza e 5 Stelle parlano di democrazia a rischio. Scendono il sommerso e l'economia illegale, ma ancora nel 2015 valevano il 12,6% del PIL, secondo i dati Istat. Etruria, le richieste di risarcimento agli ex vertici toccano i 400 milioni di euro. Molti clienti musulmani e Lidl cancella le croci dalle chiese in una gigantografia di un paesino esposta in negozio. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Dall'altra parte del vetro, in assistenza in redazione, c'è Laura Faggine, Paolo Corleoni in regia per questa puntata. In apertura, dunque, torniamo sulla Catalogna dopo il discorso ieri in Parlamento, nel Parlamento catalano, del presidente catalano Puigdemont. Oggi è arrivata la risposta della Spagna. Sergio Nava, buongiorno. Buongiorno. Il muro contro muro tra Barcellona e Madrid prosegue lasciando nell'incertezza totale la crisi catalana. A mezzogiorno ha parlato il premier iberico Rajoy, rispondendo per la prima volta in modo ufficiale al discorso di ieri del presidente della Generalitat Puigdemont. Sentiamo. Il Consejo de Ministros ha acordado esta mañana. Il messaggio di Rajoy è stato fondamentalmente duplice. Da un lato ha detto Madrid chiede a Barcellona chiarimenti ufficiali sulla dichiarazione a livello formale dell'indipendenza. È stata dichiarata insomma oppure no? Un chiaro tentativo di mettere il governo catalano con le spalle al muro e non lasciare margini di incomprensione dopo l'originale formula scelta da Puigdemont per dichiarare di fatto l'indipendenza sospendendola in modo immediato. Sulla base della risposta si chiariranno le misure che il governo spagnolo prenderà nei prossimi giorni, ha detto Rajoy, che ha esplicitamente menzionato il famigerato articolo 155 col quale Madrid potrebbe sospendere l'autonomia catalana, autonomia già sospesa per quanto riguarda il budget e da quasi un mese. Puigdemont deve tornare nell'alveo della legalità, ha minacciato Rajoy, che a breve riferirà al congresso. Una risposta indiretta e precedente al discorso di Rajoy era arrivata stamattina dal portavoce della Generalitat Turull, che in un'intervista radio ha dichiarato: se il governo spagnolo deciderà di applicare l'articolo 155, il governo andrà avanti sulla strada dell'indipendenza. I più delusi a Barcellona del discorso di Puigdemont, torniamo dunque a ieri, sono i deputati antisistema della CUP, i più estremisti sull'indipendenza e dal cui voto dipende anche il governo catalano. Da loro l'ultimatum, un mese al massimo di dialogo e mediazione, poi la secessione. È tutto. E grazie a Sergio Nava per questo aggiornamento. Noi veniamo all'Italia e alla politica italiana. Al centro della scena c'è la legge elettorale, perché ci sono i primi voti oggi in Parlamento, mentre la piazza, soprattutto con i 5 Stelle, è contro il ricorso al voto di fiducia. Iniziamo dalla cronaca parlamentare e quindi da Teresa Trillò, con la quale ci colleghiamo da Montecitorio. Teresa, buongiorno. Buongiorno Simone, oggi qui alla Camera è il primo giorno dell'articolato voto di fiducia sulla legge elettorale. Il governo infatti ha scelto questa via per blindare il testo del Rosatellum bis. L'Assemblea si riunirà alle 13.45 e poi inizieranno le procedure per i due voti di fiducia sui primi due articoli della legge. Il risultato finale arriverà entro le 21.30. Domani è previsto poi il terzo voto e il voto finale sulla legge. La scelta del governo non piace alle opposizioni e neppure ai partiti di sinistra. Il Movimento 5 Stelle ha infatti dato appuntamento qui fuori in piazza Montecitorio ai sostenitori per protestare contro la riforma della legge elettorale. Nel pomeriggio arriveranno anche i militanti di Rifondazione Comunista. Al Pantheon alle 16.30 inizierà la protesta di Sinistra Italiana, MDP articolo 1 e Campo Progressista. Forza Italia non parteciperà al voto di fiducia, dice ovviamente Renato Brunetta, ma domani dirà sì con convinzione nel voto finale della legge. E da Montecitorio per il momento è tutto. E grazie dunque a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Tra un attimo dovremo essere in grado di collegarci appunto con la piazza dove si stanno radunando i sostenitori del Movimento 5 Stelle e anche i parlamentari per protestare contro questa scelta, come si diceva, di mettere il voto di fiducia. Siamo in grado di collegarci a quanto pare con Giorgio Stamatopoulos. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora qui siamo collegati da Piazza Montecitorio, come hai anticipato, ed è la prima delle due manifestazioni che oggi si tengono nella capitale per contestare il Rosatellum, il cosiddetto Rosatellum bis, ovvero la legge di riforma elettorale e la decisione del governo su richiesta del partito di maggioranza relativa, il PD, di apporre la questione di fiducia. Comincia appunto, dicevamo, il popolo del Movimento 5 Stelle e alle 17 tutto ciò che si trova alla sinistra del PD, ovvero MDP, Sinistra Italiana, Possibile e quant'altro, si ritrovano invece a pochi metri da qui, ovvero al Pantheon. Pochi minuti fa è arrivato il deputato Danilo Toninelli a motivare un po' le truppe, i militanti del 5 Stelle, che per il momento sono qualche centinaio, ma potrebbero presumibilmente aumentare. Ha usato con noi cronisti parole forti per definire appunto questa riforma di legge elettorale, ha detto in sostanza è una merda, ma dicevamo, a proposito di toni forti, potrebbe arrivare anche Beppe Grillo nel corso del pomeriggio, qualora la piazza dovesse aumentare. Nel caso, tra l'altro, è già previsto uno spostamento a Piazza Santi Apostoli, non troppo distante da qui. Per il momento diciamo che è tutto dalla piazza, magari ci risentiamo più tardi. E grazie dunque a Giorgio Stamatopoulos, che si è anche, per così dire, cavato dall'imbarazzo sulle parole di Danilo Toninelli. Del resto le ha dette, quindi non si poteva fare altro, evidentemente. Passiamo ad altro argomento, al sommerso, i dati diffusi oggi dall'Istat, sentiamo. Vale 208 miliardi di euro, il 12,6% del PIL. È il mondo cosiddetto dell'economia non osservata, tutte quelle attività che operano nel sommerso, da lavoro nero agli affitti non dichiarati ad attività del tutto illegali. Una fetta della nostra economia che continua a pesare come, ma dopo aver registrato una tendenza all'aumento nel triennio 2012-2014, ora è in frenata. Nel 2015 meno 0,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente e anche l'ammontare si riduce di 5 miliardi di euro. Cambia anche la composizione di questa zona grigia. Cala in particolare quella quota del valore aggiunto prodotto da imprese regolari ma sottratto agli occhi del fisco attraverso false dichiarazioni su fatturato e utili, le cosiddette sottodichiarazioni. Crescono invece i lavoratori irregolari, che arrivano a 3,7 milioni, presenti soprattutto nel settore dei servizi alla persona, in agricoltura, nelle costruzioni, nella ristorazione. Cresce anche la componente degli affitti in nero e delle mance. E aumenta infine il valore delle attività illegali, droghe, prostituzione e contrabbando di sigarette, che nel 2015 hanno generato un valore aggiunto pari a 15,8 miliardi di euro, 0,2 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Veniamo a Banca Etruria. Sono stati chiesti oltre 400 milioni di danni agli ex amministratori. Sono accusati di aver depauperato il patrimonio dell'istituto che hanno gestito tra il 2010 e il 2015. Si tratta di 37 persone, ex sindaci e amministratori di Banca Etruria, ai quali il liquidatore ha chiesto oltre 400 milioni di euro di risarcimento, denaro che potrebbe essere utilizzato come indennizzo per gli obbligazionisti subordinati penalizzati dal decreto salvabanche del 2015. Tra gli ex vertici chiamati in giudizio ci sono Pierluigi Boschi, padre della sottosegretaria Maria Elena e vicepresidente della banca nel 2014, gli ex presidenti Rosi e Fornasari, il direttore generale Bronchi, il suo omologo Berni e la società di revisione Pricewaterhouse. I manager dovranno presentare le memorie difensive, così il legale di Rosi, Michele Desario. I difensori dei convenuti, che verranno incaricati appunto delle difese, predisporranno innanzitutto questa memoria difensiva iniziale e poi dopo è molto probabile che ci sarà appunto questa consulenza tecnica d'ufficio, che già di per sé da sola porterà via, per essere effettuata dal consulente incaricato, un certo tempo, insomma si parla di mesi sicuramente. Accanto alla causa civile proseguono i filoni di indagine sul lato penale, tra cui quello relativo alla bancarotta. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo all'estero ora e parliamo della California, perché sono oltre 400 chilometri quadrati di territorio bruciati, almeno 17 morti, 200 dispersi. E questo per gli incendi che hanno colpito la zona. Le contee più colpite sono quelle di Napa e Sonoma, note per la produzione vinicola, ma il governatore democratico Jerry Brown ha già dichiarato lo stato di emergenza in 7 contee. Si tratta di eventi che sono stati potenziati dai cambiamenti climatici, che hanno protratto il clima siccitoso, Come racconta Pierpaolo Duce, che è responsabile della sede di Sassari dell'Istituto di Biometeorologia del CNR e che da tempo lavora proprio con i ricercatori della California. Lo ha intervistato Cristina Carpinelli. Questo lavoro lo svolgiamo da diversi anni in collaborazione anche con altri gruppi di ricerca, in particolare in California, che purtroppo condivide, diciamo, con noi condizioni climatiche molto simili. Quindi la tendenza, diciamo, se si può fare questa previsione, è quella che si sposterà sempre più in là? Sì, gli scenari che noi abbiamo sviluppato, si tratta, diciamo, di simulazioni, di modelli basate sugli scenari climatici sostanzialmente, è quella da un lato di una aumento delle temperature, dall'altra di una riduzione delle precipitazioni, e questo ha come conseguenza un allungamento della stagione degli incendi. Dando per scontato che comunque gli incendi ci saranno, fare in modo che il loro potenziale distruttivo venga limitato, e questo diciamo riducendo attraverso azioni preventive quella che è la quantità di massa vegetale che può essere bruciata, o anche più banalmente, ma con risultati importanti attraverso, per dire, la pulizia della vegetazione che sta lungo le cunette delle strade, che sono uno dei punti classici di innesco degli incendi. 6 anni di guerra in Siria. La battaglia si concentra in queste ore nell'est, tra la capitale dell'ISIS, Raqqa, e il confine dell'Iraq, dove opera la coalizione a guida americana. Il simbolo è la città, ma il premio in realtà per gli eserciti è la zona petrolifera di Deir ez-Zor. Un ponte di barche sull'Eufrate, lungo 210 metri, capace di sopportare il passaggio di 8.000 mezzi militari al giorno. Sarebbe la prova della violazione russa dell'accordo segreto con Washington per la spartizione delle zone di influenza in quella che una volta era la Siria. Un'infrastruttura militare gettata sul fiume a sud di Deir ez-Zor, capoluogo dell'omonima regione, confinante con l'Iraq, ricca di risorse energetiche. Una zona di combattimenti dove i miliziani dell'ISIS hanno appena sferrato una controffensiva alle forze governative russe e iraniane che avanzano da sud-ovest, mentre curdi americani li incalzano da nord. Una situazione che vede Washington e Mosca vicine in guerra come non accadeva da decenni, e che suggerisce a fonti diplomatiche tedesche il fatto che tra le due potenze si sia accesa una corsa per la conquista di questa zona ricca di risorse e strategicamente importante, perché chi la conquista si assicura un netto vantaggio nelle trattative dopo la fine della guerra civile. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E veniamo adesso ad occuparci di un tema sul quale spesso siamo tornati, una sorta di anticipazione, se volete, del nostro Giro d'Italia che facciamo quotidianamente, ed è il tema dell'immigrazione. Dedicheremo nella mattinata di venerdì, un reportage alla questione dell'accoglienza e di come viene gestita. Ripeto, una questione sulla quale ci siamo soffermati spesso, a partire da 2 giorni fa, quando siamo tornati a sentire il sindaco di Cona. Tra l'altro, ieri c'è stata una protesta degli immigrati dell'ex cosiddetto Gran Ghetto di Rignano, nel Foggiano, e ne parleremo tra un attimo, tra l'altro, con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Intanto sentiamo un'anticipazione del reportage realizzato dalla nostra Valentina Furlanetto. Dove vai? Dove vai? Senza casa, dove vai? A fine agosto, a Roma, le autorità hanno usato manganelli e idranti per sgomberare Piazza Indipendenza, occupata da un centinaio di rifugiati, per lo più eritrei. Siamo poveri, che cosa abbiamo fatto? Avete ammazzato nostra sorella così! Bravi, siete cristiani! Ma non c'è soltanto Roma, le situazioni di crisi di questo tipo in Italia sono molte. L'Exmo di Torino, ad esempio. Gli appartamenti di quello che fu il villaggio olimpico di Torino 2006, da più di 4 anni sono diventati il rifugio di profughi. Sulle 1.000 persone stipate in situazione di degrado nei locali della struttura, la città di Torino ha previsto il trasferimento di 67 occupanti. Ma quali sono le altre situazioni difficili in Italia? A Ventimiglia molti migranti dormono sul letto del fiume Roia, tra loro molti bambini, come testimonia il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomini. Si registrano ancora 38 minori non accompagnati, è un campo sicuramente di transito, ci sono casi di promiscuità, ecco, al di fuori di questo ci sono tanti minori che vivono per le strade della città, sono minori che dormono lungo le sponde di questo fiume Roia, sotto il ponte. Da una città di frontiera a un'altra. A Como, circa 200 migranti dormono nel centro di accoglienza ufficiale, ma un altro centinaio dormono invece nel Silos Valmulini, in un parcheggio che di notte diventa dormitorio di emergenza. Armando Bernasconi, responsabile Caritas di Como. Questa è una problematica grossa, può trasformarsi in problema di sicurezza la malavita locale che poi usa queste persone, i maschi per magari piccolo spaccio, eccetera. Delle donne che girano così finiscono poi sulla strada a prostituirsi. Possono anche essere intercettati più facilmente dai passeur. E questo è un altro problema. Capisce che c'è tutto un giro di malavita e che gira attorno a queste persone che cerca di guadagnarci il massimo. Manca tutta la parte politica. La politica se ne sta fuori. A Como in questo momento poi la politica alimenta la paura dei cittadini e c'è tutta la parte che dovrebbe accollarsi queste problematiche che non lo fa. Lei è stato mai oggetto di critiche o attacchi per il suo lavoro con i migranti? Sì, stamattina proprio ho risposto una mail cattiva. Però ho anche tanti attestati da parte di persone che dicono vado avanti perché è un lavoro duro, però bisogna portarlo avanti. E dunque potrete sentire il reportage di Valentina Furlanetto appunto nello spazio dedicato ai reportage il sabato mattina, e nel caso ve lo perdeste ovviamente c'è il podcast dal quale riascoltarlo. Adesso ci fermiamo, poi iniziamo il nostro giro d'Italia e lo inizieremo tornando a parlare di questo argomento, il Gran Ghetto di Rignano. Ne abbiamo parlato spesso, è questo luogo, questa specie di baraccopoli nella quale sono stati raccolti centinaia di migranti impegnati nelle campagne, ovviamente spesso soggetti a caporalato, in una situazione di completa illegalità, di igiene assolutamente assente. Ebbene, ieri una parte di queste persone ha protestato, sostenuta tra l'altro da un sindacato, dall'USB, perché chiedevano cosa? L'allaccio all'acqua per la baraccopoli, l'allaccio all'acqua, perché dicono c'è un accordo con la regione Puglia e quindi vogliamo che la baraccopoli sia allacciata all'acqua. Ovviamente è un luogo illegale, nelle mani della criminalità organizzata, e questo è arcinoto, l'abbiamo raccontato sempre. Ovviamente il presidente della regione Puglia gli ha detto non se ne parla nemmeno. Michele Emiliano sarà ospite nostro tra un attimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it col TH. Vi presenta Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video nella prima parte della trasmissione. Abbiamo parlato della Catalogna, della legge elettorale, dei dati sul sommerso e sull'economia illegale, di Banca Etruria, degli incendi in California e anche un aggiornamento sulla guerra in Siria. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia e iniziamo dalla Puglia. Michele Emiliano è il presidente della regione, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Emiliano, l'abbiamo chiamata per questa protesta che c'è stata ieri di alcuni migranti che provenivano originariamente quantomeno dal famoso Gran Ghetto di Rignano, un luogo del quale abbiamo parlato spesso, una sorta di baraccopoli nella quale vivevano centinaia di persone in attesa di essere chiamate spesso dai caporali per andare a lavorare nelle campagne ad effettuare la raccolta, che è stato sgomberato, e anche questo l'abbiamo raccontato, almeno si è tentato di sgomberarlo, e che ieri protestavano perché, sostenuti tra l'altro, Emiliano, da un sindacato, chiedevano l'allaccio abusivo, perché è una baraccopoli abusiva, all'acqua. Come l'avete gestita la cosa? La storia comincia 20 anni fa, dove di tolleranza in tolleranza praticamente si è consentito, credo, ad un'associazione mafiosa che controllava il campo, perché senza un ordinamento organizzativo quel campo con 2000 persone non avrebbe potuto sopravvivere. In quel campo si svolgeva spaccio di droga, prostituzione, vendita di cibo, addirittura si facevano pagare gli affitti delle baracche da questa povera gente, ed è stata, diciamo, sotto l'egida di un presunto umanitarismo si è gestito davvero l'incredibile per tanti anni. Sì, perché Emiliano, mi scusi se mi permetto di sottolineare ulteriormente, stiamo parlando di un posto dove vivevano 2000 persone, e quindi è come un piccolo comune sostanzialmente, ma in una completa illegalità. Non so come dire, non è nemmeno un centro di accoglienza. No, era un'occupazione abusiva di un'area, peraltro di proprietà della Regione Puglia, cioè una roba fuori dal mondo. Quando 2 anni fa sono diventato presidente, ho fatto una denuncia alla direzione del settore antimafia di Bari dicendo: guardate, secondo me solo un'associazione mafiosa riesce a gestire l'intermediazione della manodopera, controllare il campo, tenere lontano i criminali indigeni che pure non mancano, e gestire questa complessità con la droga, le prostitute, l'affitto, la somministrazione di cibo e in più l'acqua che la Regione Puglia gli forniva da 15 anni gratuitamente. Una cosa veramente senza né capo né collo. 9 mesi fa abbiamo sgombrato il campo alloggiando tutti i lavoratori, perché non sono migranti, sono, molti hanno persino il permesso di soggiorno, sono i lavoratori in agricoltura che vengono in Puglia a lavorare per la raccolta del pomodoro di solito, quindi durante l'estate. Li abbiamo tutti regolarmente alloggiati. Ovviamente però abbiamo ammazzato la gallina dalle uova d'oro, perché presunte associazioni di varia natura attorno a questo campo svolgevano varie attività umanitarie per milioni di euro investiti dalla Regione Puglia, che adesso invece non vengono più erogati. Anzi, stiamo costruendo di vicino la foresteria dei lavoratori in agricoltura della Regione Puglia, un campo identico a quello che purtroppo è stato allestito per i terremotati dell'Abruzzo o delle Marche o del Lazio, con aria condizionata. Emiliano, scusi, quindi sono presumibilmente queste associazioni che stanno soffiando sul fuoco di questa protesta. Esatto, e ieri hanno fatto un gesto intelligente, dal punto, perché parliamo di gente geniale, perché è riuscita a tenere in scacco lo Stato per 15 anni, quindi non è gente qualunque. Si sono serviti anche di un sindacato, in questo caso, hanno occupato la cattedrale di Foggia e ovviamente bisognava farli venire fuori. E ieri il prefetto è riuscito a farli venire fuori e soprattutto mi ha garantito che l'area occupata non, ancora abusivamente verrà nuovamente diciamo così sgombrata, tenuto conto che abbiamo la possibilità, adesso ci sono poche decine di persone, di alloggiare a loro richiesta anche le persone che sono nel campo in luoghi dove l'acqua potabile c'è. Il punto qual è? Che vogliono rimanere lì in campagna dove poter svolgere in collusione con i capi del campo tutte le attività criminali che hanno svolto per 15 anni. E questa cosa noi non possiamo consentire. Ovviamente, ci scrive un ascoltatore, chi paga l'acqua, Emiliano ce l'ha detto, l'ha pagata per 15 anni la Regione Puglia, ha dato gratuitamente l'acqua ad un campo completamente abusivo. Ma non solo, ma dove si commettevano reati. L'acqua è stata riallacciata adesso, Emiliano? Il prefetto ha disposto così e io ho obbedito. Non poteva fare diversamente. Quindi l'acqua è stata riallacciata al granghetto di Rignano. Sto resistendo comunque con tutti i mezzi. Sto cercando di resistere con tutti i mezzi. Ci chiede un ascoltatore, dice: ma Emiliano, perché non lo sgombera? Perché non è il suo compito, lo deve fare il prefetto. Non ho potere di polizia. Avrei già fatto. Grazie Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro anche su questi fronti, non solamente su questi fronti. Veniamo ad una vicenda che ha a che fare con dei simboli religiosi, ma in realtà non sono dei simboli religiosi, no, non abbiamo in linea la vicenda della Lidl, no, va bene, mi dice Laura Fagin che mi comanda a bacchetta che adesso ci occupiamo invece di Aosta e di quello che è successo, una vicenda piuttosto curiosa, la vicenda di Aosta. Che cosa è successo? Che il presidente della regione si è dimesso. Si è dimesso dopo tre mesi, da 4-5 mesi all'essere entrato in carica, dopo che anche il precedente si era dimesso, ma per una vicenda che francamente anche qua ha dell'incredibile. È indagato perché quando è entrato nel palazzo, nella stanza del presidente della regione precedente, ha sostenuto di averci trovato 25.000 euro. Questo ha scatenato una ridda di sospetti e adesso è indagato per calunnia, una piccola storia, a quanto pare di vendette personali. Enrico Martinè, cronista della Stampa da Aosta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. La storia è questa, no? Vendettine, certo. Personali. Sì, anche, ma di certo è una storia, una pagina nerissima per un palazzo delle istituzioni, anche perché teniamo conto che la Valle d'Aosta è l'unica regione d'Italia il cui governatore, qui presidente, che è carica politica, ha anche una carica più alta, cioè del Ministero dell'Interno, è un prefetto, sì. Ed è l'unica regione che ha questa prerogativa. E quindi siamo di fronte a un fatto molto grave, che si tratti di una calunnia, sì, come nel caso dell'ultima indagine che ha portato le dimissioni del presidente in carica, cioè che era in carica fino a ieri sera, cioè per Luigi Marchi, sia che si tratti d'altro, perché tutto è avvenuto nell'ufficio della presidenza della regione e della prefettura. Sì. Quindi è molto. Dove c'erano questi 25.000 euro messi, esatto, là, e non si sa se l'ha messi, se ce l'ha lasciati. Beh, mi sembra strano che uno lasci l'ufficio da presidente e non esatto, si dimentichi 25.000 euro dentro, certo, a meno che, certo, insomma, no? Sappiamo che le regioni a statuto autonomo, a statuto speciale, sono speciali, però 25.000 euro sono sempre 25.000 euro. Quindi, poi sembrava, sì, proprio una cosa, così dicono adesso gli inquirenti, che era una cosa confezionata, perché era una busta con 25.000 euro, con alcuni documenti amministrativi, che non sappiamo quali, e sì, con una carta di credito della regione Valle d'Aosta intestata all'allora presidente, cioè al presidente, sì, di prima, cioè Augusto Rolandelli, che era scaduta peraltro. Quindi era un pacco confezionato, sembrava indicare una tangente nei confronti dell'ex presidente, tanto che la procura aveva indagato per corruzione. Per corruzione. Ignoti, naturalmente, sì, perché non si. E poi invece ha deciso di indagare per calunnia. Per calunnia. Il suo successore. Il suo successore, che ieri per questo ha dato le dimissioni, e oggi c'è stato un consiglio regionale piuttosto infuocato, perché ci sarebbe dovuta essere anche l'elezione del nuovo presidente, della nuova giunta, sì, ma la giunta uscente, e compreso appunto Marchi, presidente uscente, hanno detto che non avrebbero dato il loro voto per fare il consiglio regionale, sì, col cambio all'ordine del giorno, quindi insomma slitta, sì, tutto a venerdì, quindi un altro pasticcio. Allora, Enrico, io ti ringrazio. Grazie Enrico Martinè, cronista della Stampa da Aosta, per questo intrigo nel palazzo della Regione Valle d'Aosta. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati. Ci ritroviamo subito dopo. Avevo iniziato dicendo, parlando di simboli religiosi, c'è questa storia che arriva dalla Liguria, dove la Lidl aveva dentro al negozio una gigantografia alle casse del punto vendita, ed era la gigantografia di un paese, il paese di Dolceacqua, nella quale, come in tutti i paesi italiani, c'è la foto del paesino e ci sono le croci sopra la chiesa, solamente che il punto è: troppi clienti musulmani, vai di Photoshop e togli le croci da sopra la gigantografia. Una roba veramente pazzesca. Abbiamo in linea Fulvio Gazzola, che è il sindaco di Dolceacqua, che era il paesino ritratto nella foto, e però gli chiediamo di attendere ancora un attimo in linea, perché abbiamo il momento della nostra pausa e poi parleremo anche di Roma, perché ieri il prefetto ha raccontato che ci sono 12.000 occupazioni abusive di case a Roma, di quelle delle case popolari, quelle al centro di tanti scandali. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno e il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per sms e messaggi su WhatsApp e la diretta video su Facebook. I nostri titoli: in la Catalogna, Rajoy al leader catalano, dica se ha dichiarato l'indipendenza oppure no. Legge elettorale, oggi i primi voti in aula, protesta in piazza, i 5 Stelle parlano di democrazia a rischio. Scendono il sommerso e l'economia illegale, nel 2015 valevano però ancora il 12,6% del PIL. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Campo Rosso, provincia di Imperia, dove sorge un supermercato Lidl e dove alle spalle delle casse è ritratto un altro paese ligure. Si tratta di Dolce Acqua. Le foto ritraggono appunto Dolce Acqua, che, come si diceva prima, come molti paesi italiani, come molte città italiane, è piena di chiese e quindi conseguentemente di simboli religiosi, perché sopra le chiese spesso c'è, indovinate un po', una croce. Che cosa succede? Che Lidl, per non urtare la sensibilità, per non urtare la sensibilità dei molti clienti di origine araba e di religione musulmana che frequentano quel supermercato, decide di sbianchettare, per così dire, le croci, di farci una passata di Photoshop. Ovviamente se ne risentiranno in molti, ma il primo a risentirsi è stato proprio il sindaco di Dolce Acqua, che è il paese ritratto, Fulvio Gazzola, che è in linea con noi. Eccoci qua, salve. Buongiorno. Ha scritto alla Lidl, sì? Sì, ho scritto e ho già ricevuto risposta questa mattina, quindi è stata una cosa veramente molto, molto veloce da parte loro. Che le hanno detto? Che si scusano e che provvederanno a rimediare a questo fatto. Cioè ripiazzano le croci là sopra. Guardi, la cosa è un po' particolare, perché a qualche mese c'era questa foto, come lei ha ben descritto, che è una foto di un'immagine, anche se particolare del paese, perché il nostro paese è riconosciuto per l'immagine del Ponte Castello, anche dipinta da Monet, quindi l'immagine classica è quella. Questa è una foto molto particolare, che di lato ha questa chiesa parrocchiale, che in questa foto in maniera anomala sono sparite le croci, più di una. Sì, ci ricorda un ascoltatore giustamente da Verona, e dice che hanno fatto la stessa cosa con la pubblicità dei prodotti greci, nei quali veniva fotografata, tra l'altro, Santorini, avete presente quelle belle cupole blu con sotto la chiesa bianca, senza la croce sopra, appunto, proprio per... Allora, parlando questo, quindi qualche mese fa siamo andati a chiedere spiegazioni, ma il direttore del negozio locale non sapeva darci una spiegazione. Venuta a conoscenza di questo fatto di Santorini, che è accaduto in Belgio, dove a quanto pare la Lidl ha dato proprio una dichiarazione del tipo: è voluta perché noi, la nostra politica corretta, ci impone di non mettere simboli religiosi. A questo punto questa notizia mi ha imposto, insomma, che da parte dei cittadini, di chiedere spiegazioni se anche questa foto nostra apparsa in questo negozio a Campo Rosso avesse seguito questo tipo di politica, e abbiamo fatto questa raccomandata che ho inviato sia alla Lidl Italia che Europea. Stamattina, dopo l'uscita sui giornali, loro mi hanno chiamato e la risposta è stata: ci scusiamo, non sapevamo, non avevamo idea. Ovviamente c'è voluta l'uscita sui giornali, a cancellare. Adesso io sono in buona fede, vediamo se effettivamente faranno così. Io non so se in Italia e in altri negozi No, ma infatti sto dicendo, dato che siamo qua in radio, occhio, se andate a fare la spesa alla Lidl e ci sono delle gigantografie di questo tipo, date un'occhiata, vedete se ci sono delle chiese nelle quali vi sembra sia stata cancellata la croce, o se volete segnalatecelo anche. Vabbè, mi sembra che sia conclusa dunque la vicenda, grazie a Fulvio. Il messaggio, però, vorrei che fosse un messaggio corretto, non è che la nostra comunità sia contro le altre religioni, assolutamente. Quello che ho detto alla Lidl, ho detto: se voi avete una foto da ma figuriamo dell'uomo. Ma il punto, Gazzola, è che se un edificio è fatto così, è fatto così, non ti metti a sbianchettarlo. Non mi aspetto di vedere ovvio. Era solamente questo. Grazie Fulvio Gazzola, sindaco di Dolce Acqua, per essere stato con noi. Torna Lorenzo De Cicco, giornalista del Messaggero. Ciao Lorenzo, bentornato. Ciao, buongiorno. Per parlare del mitico tema delle occupazioni abusive di immobili a Roma, perché grande cinema con lo sgombero di via Curtatone, di piazza Indipendenza, dopodiché ieri il prefetto va in commissione in Campidoglio e dice: ragazzi, ci sono 12.000 occupanti in questo momento nella città, e da quel momento, dopo quello sgombero là, non si è fatto praticamente nulla, è così, no? Sì, sì, esatto. Ieri il prefetto è stato ascoltato in commissione, la commissione d'inchiesta sulle periferie, e ha detto che quello delle occupazioni, parole sue, è il problema dei problemi per Roma. Lei ha detto ci sono 11.600 occupanti abusivi nelle case del comune, più bisogna considerare quelle dell'ATER, non c'è nessun censimento, anche il prefetto ha alzato le mani e ha detto non so neanche io quanti sono, ma è un quadro diciamo indecente. Consideriamo che, come dicevi tu, è tutto bloccato, l'ATER, che è l'agenzia regionale dell'edilizia residenziale, avrebbe pronti, questo l'abbiamo scritto, 1.300 sgomberi. Non si fanno perché il comune non chiede il decreto di attuazione di questi sgomberi e quindi è tutto fermo. I pochi che vengono fatti soltanto perché a un certo punto si muove la procura per forza di cose e quindi qualcosa avviene. Quindi manca un atto, Lorenzo, che è un atto amministrativo, mi sembra di capire, semplicemente un atto amministrativo. Manca, cioè, una il comune. Sì, è la richiesta del decreto di attuazione che di norma dovrebbe fare il comune, invece questo non avviene, anche perché quando il ministro Minniti, dopo Curtatone, dopo il caso di Piazza Indipendenza, ha cambiato le regole per gli sgomberi, il comune, è passato ormai un mese e mezzo, sostanzialmente non ha fatto nulla. Che cosa doveva fare il Campidoglio? Doveva indicare quali sono gli immobili dove alloggiare le cosiddette fragilità, cioè gli occupanti che sono in condizioni disagiate, la mamma con i figli piccoli, gli anziani, i disabili gravi, eccetera. Questo al momento non è avvenuto, in comune continuano a dire che stanno facendo una mappatura, di fatto c'è un post su Facebook del 29 agosto in cui la sindaca diceva tolleranza zero contro le occupazioni, però diciamo è rimasto lì su internet, ecco. Per il momento vedremo dunque cosa succederà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, seguiremo la vicenda. Grazie a Lorenzo De Cicco, giornalista del Messaggero. A proposito di Lidl, qualcuno ci dice ma che problema c'è se le politiche di Lidl sono quelle? Non c'è nessun problema, ma metteteci una foto, che ne so, dei grattacieli di Milano, di una strada di qualsiasi tipo dove non c'è una chiesa. Se c'è una chiesa e sopra la chiesa c'è una croce, ci lasci la croce, perché il paesaggio è quello, non è che ci puoi fare niente, non è che cancelli la neve da una montagna, o qualcuno dice facciamo il Kilimangiaro senza la neve sopra perché sennò offendiamo i freddolosi. Beh, insomma, no, il ragionamento è un po' quello. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.